Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Gli italiani sono ancora poco consapevoli verso la salute del proprio cuore e quanto emerge dai dati raccolti dalla Banca del Cuore durante la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare. A Obiettivo Salute il dottor Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore e direttore della struttura complessa di cardiologia all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. In effetti è vero, gli italiani sono poco consapevoli, è passato bene il massaggio sulla pressione arteriosa, gli italiani mantengono un buon livello di pressione arteriosa sia massima che minima, gli uomini tendenzialmente più alta, gli uomini sono anche tendenzialmente più obesi e in sovrappeso rispetto alle donne, ma quello che è il dato più allarmante è che entrambi hanno valori elevati di colesterolemia, particolarmente più alto il colesterolo totale nelle donne, quello cattivo o uguale in entrambi i sessi, quindi una poca consapevolezza nei confronti di quello che oggi rappresenta il killer numero uno per lo sviluppo di infarti, ovvero il valore alto di colesterolo. Colesterolo, se volete imparare a tenerlo sotto controllo, seguite i consigli del dottor Gulizia sulle pagine di Obiettivo Salute. E da oggi Obiettivo Salute parte un nuovo appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono sapere come coniugare gusto e salute a tavola, con i consigli del dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, idee e suggerimenti su cosa mangiare e come mangiare per stare bene. Oggi partiamo con la ricetta per preparare un panino per la pausa pranzo, buono, gustoso, salutare e ricco di energia. Un panino deve essere fondamentalmente intanto di tipo integrale, poi una base proteica, quindi ragioniamo, andiamo dal carnivoro al vegetariano con piena libertà, quindi possiamo metterci dentro del formaggio, una frittata, del prosciutto, ci possiamo utilizzare tranquillamente del tofu, possiamo utilizzare serenamente delle mandorle, ad esempio si possono usare delle creme di mandorle piuttosto che non delle creme di nocciole che hanno un contenuto proteico estremamente elevato, anche il 35%, e poi obbligatoria una componente di frutta o di verdura, un pezzettino di sedano, magari una fettina di mango, cioè dare anche gusto, sapore pieno al nostro panino perché bilanci correttamente i carboidrati, il pane, le proteine e frutta e verdura in modo adeguato. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sempre prosegue con Melog. Io invece vi aspetto in diretta video con il mio esperto, vi dirò cosa portare in tavola per non farvi mettere KO da mal di gola, raffreddore, tosse. Io vi aspetto, non mancate, noi ci sentiamo domani a Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.